Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Inizia così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa puntata, perché inizia la settimana in un modo davvero tragico. Avete sentito questi spari in sequenza incredibile, come fosse una mitragliatrice, un mitragliatore, un fucile automatico d'assalto, un Kalashnikov, insomma, questi sono i suoni che vengono dalla strage che c'è stata oggi negli Stati Uniti, a Las Vegas. Si parla di 58 morti, oltre 500 feriti. Un uomo bianco ha sparato sulla folla che era lì radunata, migliaia di persone per vedere un concerto, un festival country, e ha sparato così sulla folla con il ritmo che avete sentito. Ne parleremo, ci collegheremo con gli Stati Uniti, perché ancora non è chiaro, è stato rivendicato dall'ISIS, però si tratta in realtà di un uomo bianco di 64 anni. Secondo il fratello non è legato né a ideologie politiche né religiose, anche se il padre, ho visto una notizia di poco fa, un aggiornamento, dice che era uno degli uomini più ricercati dell'FBI. Insomma, c'è ancora un po' di mistero, perché l'FBI a sua volta dice che non è legato al terrorismo. Ci collegheremo poi con gli Stati Uniti, cercheremo di capire se c'è qualche notizia in più. Poi ci soffermeremo ovviamente il giorno dopo sul referendum catalano, con tutto il parapiglia che è successo ieri domenica a Barcellona. Avrete visto le immagini, capiamo adesso quali sono state le reazioni e anche quali potrebbero essere i prossimi passi a questo punto della Spagna, del governo centrale di Madrid e della stessa Catalogna. Poi, per rilassarci un po', ci occuperemo anche del Nobel per la medicina 2017, che è stato assegnato ai tre padri, ai tre scopritori dell'orologio biologico. Quante volte avrete usato e sentito questa espressione? Cercheremo di capire meglio di cosa si tratta nel dettaglio. Intanto, per interagire con Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Però prima di tutto, prima di approfondire questi temi, sintesi della giornata. La strage di Las Vegas, a sparare sulle migliaia di persone al concerto, un uomo bianco di 64 anni, le vittime sono 58 e oltre 500 i feriti. L'ISIS rivendica, ma l'FBI dice nessun legame tra l'aggressore e il terrorismo. Il referendum catalano, Barcellona chiede una mediazione internazionale, domani sciopero generale. Politica italiana, Pisapia va da Gentiloni, mai più le mance elettorali, dice, e per il voto sul DEF, documento di economia e finanza, risponde, sentiamo prima Padoan. Pornografia minorile, arrestato un giudice a Messina. Televisione, il Consiglio dei Ministri approva il decreto per più film e fiction italiani in prima serata. Nobel per la medicina è stato assegnato ai tre medici che hanno scoperto come funziona l'orologio biologico. Partiamo quindi dalla strage di Las Vegas, la più sanguinosa nella storia moderna degli Stati Uniti, commessa con armi da fuoco. È avvenuta durante un concerto di musica country a Las Vegas. Un uomo bianco di 64 anni, Stephen Paddock, ha sparato sul pubblico dalle finestre di un hotel, uccidendo almeno 58 persone e ferendone 515. Era al 32esimo piano di questo hotel, dove poi si è tolto la vita prima che facesse irruzione la polizia, e lì sono stati trovati 10 fucili. Si sarebbe trattato dell'azione di un lupo solitario, senza quindi implicazioni di terrorismo, ma a metterlo in dubbio è arrivata la rivendicazione, come vi dicevo, dell'ISIS sul web, resa nota dal site, il sito che monitora l'islamismo integralista sul web. Fonti dell'amministrazione e lo stesso FBI hanno escluso collegamenti con gruppi terroristici, e Trump ha parlato alla nazione senza fare riferimento a legami terroristici. Secondo i media americani, però, Paddock si sarebbe convertito all'Islam mesi fa. Però, come vi dicevo, più tardi ci colleghiamo direttamente con gli Stati Uniti per sapere se ci sono ulteriori notizie. Intanto parliamo del referendum catalano. All'indomani del voto si parla dei prossimi passi da parte del governo della Catalogna. Il presidente catalano Puigdemont chiede una mediazione internazionale con Madrid sulla crisi della Catalogna, perché dice l'Unione Europea non può continuare a guardare dall'altra parte, questa è una questione europea, non interna. Puigdemont ha anche annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta sulle violenze contro la popolazione civile di ieri. Il governo esige inoltre il ritiro delle migliaia di agenti inviati dalla Spagna in Catalogna, e in mattinata dall'Unione Europea intanto era arrivata alle parti l'appello a muoversi dal conflitto e andare invece al dialogo, pur sottolineando che si è di fronte a una questione interna alla Spagna. Tra poco torniamo a parlarne e sentiamo però anche le reazioni internazionali. Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal. Rompe il silenzio la Commissione europea con una dichiarazione del portavoce Margaritis Schinas per ribadire l'illegalità del referendum e la necessità di aprire il dialogo perché la violenza non può essere strumento in politica. Insomma, da una parte la condanna degli scontri, dall'altra la piena fiducia a Rajoy che saprà risolvere un contenzioso che di fatto Bruxelles considera questione interna alla Spagna, anche se mercoledì se ne parlerà a Strasburgo in sessione plenaria. Poche ore dopo il Presidente del Consiglio europeo a prendere posizione, condivido le tesi costituzionali di Rajoy, scrive Donald Tusk in un tweet, ma a lui rivolgo l'appello affinché eviti un'ulteriore escalation e l'uso della forza. Intanto l'ONU, attraverso l'Alto Commissariato per i diritti umani, esorta le autorità spagnole a garantire indagini complete, indipendenti e imparziali su tutti gli atti di violenza, sottolineando come le risposte di polizia devono essere sempre proporzionate e necessarie. Tra i leader europei a difendere Rajoy è il presidente francese Macron. La Spagna dice deve restare unita, mentre una sollecitazione a trovare soluzioni condivise attraverso un confronto arriva dal Presidente della Repubblica Mattarella. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E al forum Italia-Spagna, dove si è parlato soprattutto di economia, era presente anche il ministro Padoan, che ha parlato dei dati sul mercato del lavoro. I dati si riferiscono ad agosto, quando l'Istat certifica un aumento degli occupati di 36.000 unità rispetto a luglio e di 375.000 rispetto ad agosto 2016. Il tasso di occupazione sale al 58,2%, con l'occupazione femminile che sfiora ad agosto il 49%, segnando un nuovo massimo storico. L'altra faccia, quella della disoccupazione, con il tasso che scende sempre ad agosto all'11,2%, ed è incoraggiante il dato sulla disoccupazione giovanile che scende al 35,1%. Il commento del ministro del lavoro Giuliano Poletti: migliorano i dati relativi al lavoro delle donne e dei giovani, con un tasso di disoccupazione che resta però ancora troppo elevato. Per questo intendiamo intervenire con misure specifiche nella prossima legge di bilancio. Sono spariti i gufi anti-Jobs Act, esulta su Facebook il segretario del PD Matteo Renzi. L'ex premier omette di dichiarare che i presunti nuovi posti di lavoro sono 97% precari o magari solo di poche ore. Precisa invece il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta. Maria Piera Ceci, Radio 24 e Sole 24 Ore. E restiamo sulla politica italiana allora con Giuliano Pisapia, il leader di Campo Progressista, che ha incontrato oggi Paolo Gentiloni, il Presidente del Consiglio, per affrontare i temi legati al DEF, Documento di Economia e Finanza, e alla legge di bilancio, e chiede che non ci siano mai più mance elettorali. Fra le richieste giudicate indispensabili da Campo Progressista, gli investimenti sulla salute, nuove assunzioni, più tutele. Riguardo al voto sul DEF, ha poi detto Pisapia, i gruppi decideranno dopo aver sentito Padoan domani. Intanto, invece, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio lancia un messaggio a tutti i sindaci, non solo quelli del Movimento. Dice: lavoriamo insieme alla prossima legge di bilancio e rimettiamo in piedi i servizi. Secondo il candidato premier del Movimento 5 Stelle, gli enti locali sono stati usati come bancomat dal governo centrale, con tagli, dice, miliardari. E anche per la politica italiana poi ci sarà uno spazio nel corso di Effetto Note. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per le quote TV. Almeno un film, una fiction, un documentario, un cartone italiano andrà programmato in prima serata ogni settimana da ciascuna rete. Per la RAI dovranno essere due. È stato approvato il decreto legislativo che riforma le norme in materia di promozione delle opere europee. Le proteste nei giorni scorsi degli editori TV, che sul decreto Franceschini hanno stretto una santa alleanza, non sono riuscite a bloccare un provvedimento che innalza gli obblighi per gli editori di investimento in produzioni audiovisive indipendenti italiane ed europee, aumentando anche le sanzioni che possono arrivare fino al 3% del fatturato. La nuova legge prevede che la RAI passi a investire, fra 2018 e 2020, dal 15 al 20% dei suoi introiti netti, le commerciali dal 10 al 15%. Una quota di questa andrà al cinema italiano, con i broadcaster che hanno molto protestato considerando il testo come una minaccia anche per la libertà editoriale. Il testo passa ora alle commissioni parlamentari, al Consiglio di Stato e alla conferenza Stato-Regioni per i pareri di merito. Un tempo supplementare cui con ogni probabilità le TV guarderanno con molto interesse. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il disegno di legge Falanga va verso l'archiviazione, il disegno di legge sull'abusivismo edilizio. Sebbene depotenziato non convince gli ambientalisti né le opposizioni, il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli dichiara questa norma, se approvata, renderebbe impossibili le demolizioni anche su costruzioni future, quindi per il momento sembrerebbe archiviata. Adesso l'inchiesta Consip a proposito di archiviazione, la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione appunto delle posizioni dei PM, del PM di Napoli Harry Woodcock e della giornalista Federica Sciarelli, indagati, vi ricordate, entrambi per concorso in rivelazione del segreto d'ufficio. Woodcock anche per falso. Comunque dagli accertamenti svolti non sono emersi elementi per confermare le iniziali ipotesi di accusa. Quest'altra notizia invece è molto pesante. Un giudice in servizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria è stato arrestato dalla Polizia di Messina per pornografia minorile. Nei suoi confronti il GIP della città dello Stretto ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E poi l'immigrazione, perché sembrano essere riprese nelle ultime 48 ore le partenze dei barconi e dei gommoni carichi di migranti dalla Libia. Le navi della Marina e della Guardia Costiera italiana impegnate nelle missioni in acque internazionali hanno infatti soccorso tra domenica e oggi circa 800 persone. I migranti sono stati tutti recuperati e trasferiti a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. E così arriviamo al Nobel per la medicina. È stato assegnato ai tre padri dell'orologio biologico. Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young hanno ricevuto il riconoscimento per aver scoperto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano, ossia appunto il comportamento dell'orologio biologico che governa un po' tutti gli esseri viventi. Poi nel corso di Effetto Notte ne parliamo con un esperto. Per chiudere il calcio, con la nazionale è piena emergenza a Coverciano per il CT Ventura in vista del doppio impegno dell'Italia contro Macedonia e Albania. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Verratti, di Pellegrini, Belotti e De Rossi. Non andare al mondiale, dice, sarebbe una catastrofe. Sentiamo Ventura. Non cambiano le idee, non riferite al modulo, che il modulo è il problema non è il modulo, il problema è come si interpreta. È un problema di tempi e spazi che, se interpretati bene, hanno un senso, se interpretati male hanno un senso opposto. Quindi non è un problema di modulo, così come l'assenza di questi giocatori, parlo soprattutto dei centrocampisti, crea qualche problema, nel senso che avremmo in due giorni potuto riaffrontare determinati discorsi, mentre invece Barella non l'ha mai affrontati, Cristante non l'ha mai affrontati e la Gagliardini l'ha affrontati di passaggio. E con questo direi che la sintesi della giornata è esauriente dei fatti principali dall'Italia e dall'estero. Allora, viabilità, e poi cominciamo con gli ospiti ad approfondire alcuni temi. Vedo già un ascoltatore, Luigi Venosa, che da Piacenza, che scrive, che commenta la decisione del Consiglio dei Ministri di varare questa legge che incentivi un maggior numero di film e di fiction italiane nella nostra TV. Dice, e quindi ascoltate voi manager della RAI, vorrei che la teoria per la quale è stato vinto il Nobel la studiasse chi prepara i palinsesti televisivi, quindi i ritmi circadiani, no? Del sonno e della veglia. Dice, è impossibile che i nostri ragazzi, per finire di vedere la fiction, facciano sempre le 23:30. Beh, lì sta un po' anche ai genitori, a un certo punto, se ritengono che sia un'ora un po' tarda, diciamo, accompagnarli sollecitamente verso il letto. Bene, adesso invece vi accompagno verso le viabilità, ma ci troviamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho ricordato in questa sintesi della giornata, che tra poco di nuovo vi sottopongo per quanto riguarda i titoli principali. Le catastrofi, caro Ventura, sono altre, dice un'ascoltatrice a proposito della lamentela, dello sgomento di Ventura. Dice, se qui non andiamo ai mondiali è una catastrofe. Ritengo, sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore e ascoltatrice, certamente dal suo punto di vista Ventura si occupa di calcio, della nazionale, per lui la catastrofe è quella. Diciamo che per certi versi è una fortuna che siano queste le catastrofi quando sono queste. Adesso ci occuperemo però di altro e vi ricordo intanto che per interagire. 349-238-6666 è sempre il numero per i vostri WhatsApp ed SMS. Sarà una pagina Facebook di Effetto Notte che però vedo fa fatica ad aprirsi, ci deve essere qualcosa qui, qualche inghippo nel computer. Poi invece l'ascoltatrice Clotilde dice: ho l'impressione che Pisapia soffra di personalità multiple come Alfano, un giorno di qua, poi un giorno, ma forse chi lo sa, poi ne parleremo anche di politica. Queste le notizie comunque più importanti. La strage di Las Vegas, a sparare sulle migliaia di persone al concerto un uomo bianco di 64 anni, le vittime sono 58, oltre 500 i feriti. L'ISIS si rivendica, ma l'FBI dice che non c'è nessun legame tra l'aggressore e il terrorismo. Il referendum catalano, Barcellona chiede una mediazione internazionale, domani sciopero generale. Politica italiana, appunto Pisapia che va da Gentiloni, dice mai più le mance elettorali. Pornografia minorile, arrestato un giudice a Messina, televisione, il Consiglio dei Ministri approva il decreto a cui faceva riferimento prima l'ascoltatore, più film e fiction italiani in prima serata, quindi dovrebbero finire prima, dico l'ascoltatore. Nobel per la medicina è stato assegnato ai 3 medici che hanno scoperto come funziona l'orologio biologico. Siamo il giorno dopo il referendum per l'indipendenza della Catalogna, naturalmente questo il clima così acceso, così drammatico che la Catalogna ha vissuto ieri per questo referendum così osteggiato, vietato anzi da Madrid, dal governo centrale. Abbiamo assistito davvero a una situazione che ha suscitato un generale sconcerto, no? Una giornata veramente molto drammatica, con oltre 800 persone ferite nei seggi della Catalogna per decisione di Madrid di fermare ad ogni costo questo voto, una scelta che si può dire, possiamo dirlo, piuttosto inopportuna, al di là che il referendum della Catalogna sia stato considerato comunque illegale, incostituzionale, mancava un quorum di raccolta di firme, una campagna elettorale, poi la Costituzione della Spagna non prevede che una regione si possa staccare così con un referendum, però tutto questo ha portato sicuramente a un grosso danno d'immagine per Madrid e per il governo di Mariano Rajoy. Con la polizia, avrete visto le scene che manganellava a tutto andare, sparava proiettili di gomma sulla folla, infatti vi dicevo oltre 800 feriti, e forse il governo di Madrid avrebbe dovuto prendersi il rischio di lasciar votare i catalani, anche perché come ci spiegava il corrispondente giorni fa da Barcellona, in effetti tutti ormai a questo punto volevano votare, però non tutti i catalani erano necessariamente per l'indipendenza. Avevo visto anche una dichiarazione della sindaca di Barcellona venerdì o giovedì scorso, che diceva, quindi diciamo il capo della città che è capitale della Catalogna, che diceva: io in realtà non sono né decisamente per il sì né decisamente per il no, voterò scheda bianca. Fatto sta comunque che sono andati alle urne 2,3 milioni di cittadini della Catalogna, e di questi il 90% ha votato per il sì. Ora ci colleghiamo col nostro Sergio Nava, che è inviato a Barcellona. Ciao Sergio. Ciao Roberta, buonasera. Allora, oggi cosa succede? Che il presidente catalano Puigdemont si è pronunciato per una mediazione internazionale, no? Con Madrid, chiede all'Unione Europea, dice basta voltarsi dall'altra parte, bisogna che diventi una questione europea e non interna, mentre l'Unione Europea dice in realtà sì, noi vorremmo che questa escalation fosse fermata, però è una questione interna alla Spagna. A questo punto, intanto, prima dici che clima c'è a Barcellona il giorno dopo, Sergio? Oggi diciamo, io ho girato abbastanza il centro, devo dire, la gente è tornata sostanzialmente alla sua attività, a parte gli studenti che invece hanno occupato per un'ora di pranzo la Plaza Catalunya, la piazza centrale, e hanno inscenato una manifestazione pro-indipendentista e poi sono sfilati per le strade. E devo dire anche è stato interessante vedere tutti questi giovani con le bandiere, insomma c'è comunque un ideale, una speranza dietro, che venga visto in modo giusto o sbagliato a seconda dei punti di vista, però c'è una bandiera, diciamo, a cui appigliare una speranza. Però sostanzialmente, dici Sergio, abbastanza tranquilla la situazione oggi? Oggi era molto tranquilla, a parte la via Laietana, dove si trova la sede della Jefatura de Policía, famigerata perché nei tempi del franchismo venivano torturati gli oppositori, e quindi diciamo nella memoria di Barcellona è un posto tetro. Quello della gendarmeria, dici. Che oggi parecchio tetro, visto che sono sfilato davanti io e ho visto poliziotti schierati, anche in assetto antisommossa, camionette della polizia, sembrava una, non so, una sede di una forza straniera, tanto era protetta. Questo dà l'idea, secondo me, di quanto ormai le stesse forze di polizia spagnola che ieri hanno esagerato, ora si sentano sotto assedio loro stesse per paradosso. Sergio, l'alto commissario ONU per i diritti umani, Al-Hussein, si è detto oggi molto turbato di queste violenze e ha chiesto alle autorità spagnole di garantire delle indagini complete, indipendenti, imparziali su tutti gli atti di violenza. Secondo te a questo punto quali sono i prossimi passaggi? Abbiamo detto appunto che il presidente catalano, perché ricordo all'ascoltatrice e agli ascoltatori che la Catalogna comunque ha già una sua autonomia, un suo parlamento, un suo presidente, che ha chiesto appunto la mediazione europea, quali saranno i prossimi passi da quello che puoi dedurre? Ma, tu? Siamo un po' in acque inesplorate oggettivamente. A proposito di commissione inchiesta, anche la Generalitat catalana ha annunciato che ne farà una per appunto indagare sui fatti di ieri, sui drammatici fatti di ieri. Da un punto di vista più politico è tutto più difficile invece da prevedere, nel senso che di fatto si naviga verso una dichiarazione unilaterale di indipendenza in Parlamento. Allo stesso modo però la Generalitat, il governo catalano, ha fatto capire che è aperta al dialogo, dipende ora quanto Madrid sia aperta al dialogo, sapendo che sul tavolo ormai c'è solo trattare su come uscire, su come arrivare all'indipendenza, non c'è molto altro. Quindi in tutto questo vorrei aggiungere una nota, una postilla sull'atteggiamento delle istituzioni internazionali, in particolare di un'Europa che secondo me è stata veramente inadeguata di fronte a una sfida così grossa, un'Europa che mai come ieri si è mostrata lontana ai cittadini. A me devo dire, fa abbastanza ridere pensare alla marea di tweet, comunicati stampa che commissari europei, parlamentari europei, leader delle istituzioni europee mandano quotidianamente. Ieri erano misteriosamente tutti zitti. Oggi sono usciti con un comunicato stampa dove la parola violenza era nelle ultime due o tre righe. Quindi se questa è l'Europa che vuole essere vicino ai cittadini che hanno ragioni insomma con cui essere d'accordo o con cui essere in disaccordo, ma comunque i cittadini vengono picchiati per le strade, penso che abbia perso un'enorme occasione di far vedere quanto possa essere vicino ai cittadini. Non servono i dialoghi dei cittadini organizzati ogni tanto in qualche università con 40 persone selezionate, serve far vedere che si è vicino quando c'è necessità, serve far vedere se è vicino ai cittadini quando si è per le strade e si viene picchiati a forze di polizia del proprio paese. In questo l'Europa è stata vergognosa. E per chiudere dico che la squadra del Barcellona aderisce allo sciopero generale in Catalogna, sarà appunto adesso da capire che cosa succede, quali sono appunto, come si diceva con Sergio Nava, i prossimi domani, passi. Domani c'è uno sciopero generale, questo è importante a ricordare. Sì, grazie Sergio Nava da Barcellona. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. E adesso saluto Antonio Villafranca. Buonasera Villafranca. Buonasera a voi. Responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Internazionali. Allora, prima di fare, Villafranca, magari una panoramica sulle altre spinte indipendentistiche che ci sono in Europa, che ci sono state, insomma, quelle più recenti, quelle più attuali, che ne pensa del commento critico che faceva Sergio Nava a proposito e anche la stessa Catalogna, insomma, rispetto all'Unione Europea, al suo ruolo un po' schivo, cosa vogliamo dire, in questo braccio di ferro? Bisogna fare chiarezza veramente su questo, perché non può essere sempre però colpa dell'Unione Europea. Quello che è successo in Spagna è un atto di autolesionismo tutto spagnolo, che non fa bene alla Catalogna e non fa bene a tutto il resto della Spagna. Allora, che cosa vuol dire l'Unione Europea? Se ci si aspettava una posizione ufficiale da parte della Commissione europea, questa non poteva venire, è fuori dai trattati. L'Unione europea non può assumere su una questione interna di un paese una posizione precisa e netta. Può fare un comunicato come quello che ha fatto oggi, forse poteva essere anche più duro, perché l'uso della violenza e le immagini che abbiamo visto sono assolutamente ingiustificabili. Però stiamo attenti, perché non è che ogni cosa che succede è insomma sempre colpa dell'Unione Europea. Lì ci sono colpe ben precise, con un Rajoy che è riuscito nell'impresa veramente quasi impossibile dal passare dal giusto al torto. Quindi ci sono stati due torti che hanno creato veramente una situazione incredibile. A questo proposito, Villafranca, raccolgo la domanda di Francesca che dice: Roberta, ma il capo dello Stato, il re, non dice nulla in Spagna? Il re in questo momento che posizione ha, visto che c'è una monarchia? Ovviamente stupisce e impressiona anche il silenzio, diciamo, del re, che dovrebbe essere il garante comunque dell'unità nazionale e quindi non considerato, diciamo, totalmente imparziale in Spagna e in particolar modo in Catalogna. E c'è anche un timore, diciamo, probabilmente da parte della monarchia spagnola, di porsi in una questione che anima così tanto gli animi, che anima così tanto la gente, ma purtroppo questo è un segno di enorme debolezza anche della monarchia. È in crisi la Spagna, sono in crisi le sue istituzioni ed è in crisi anche la monarchia. Così si può spiegare appunto il silenzio anche. Fabio cita i baschi, però mi pare che per quanto riguarda la questione basca, addirittura lì si è parlato negli anni, cioè ci sono stati attentati, insomma una situazione molto tesa, molto drammatica, anche del sangue, però mi sembra che si sia più o meno appianata, no? in Spagna la questione dei baschi, mentre Villafranca continuano a esserci delle spinte indipendentiste per quanto riguarda, non so, c'è la Scozia, l'indipendentismo corso, che però è una questione diversa, quella della Corsica, il Kosovo, che non è riconosciuto tra l'altro dalla Spagna. Adesso nel nostro piccolo, il 22 ottobre, si vota anche per una maggiore autonomia della Lombardia e del Veneto, no? Qual è il filo conduttore di tutte queste spinte centrifughe? È molto più ampio, una tendenza molto più ampia del fatto che ci sono degli effetti legati all'apertura dei mercati e all'internazionalizzazione che spinge la gente in generale a sentirsi più in difesa rispetto a questi grandissimi fenomeni e a chiedere maggior potere e livelli di governo più vicini a sé. Ma mentre questo è comprensibile, quello che ci dovrebbe veramente chiedere è se questo tipo di richieste possono andare possono veramente soddisfare le esigenze dei cittadini. Ed è qui che nasce il problema. In questi giorni, ad esempio, pochissimo si è parlato, ma una Catalogna indipendente andrebbe veramente a soddisfare i bisogni della Catalogna? Cioè, non dimentichiamo che una Catalogna indipendente significa avere un paese che ha comunque già un alto debito, che dovrebbe prendersi un pezzo di debito spagnolo, che avrebbe un sistema finanziario, bancario particolarmente debole, come quello anche del resto della Spagna, e che non avrebbe più accesso alla liquidità della Banca Centrale Europea. Per far capire anche agli ascoltatori cosa voglia dire questo, bisogna ricordare cosa era successo in Grecia quando appunto non c'è stata più la liquidità fornita alle banche greche dalla BCE, quando la gente appunto poteva soltanto prelevare poche decine di euro dagli sportelli bancomat. Cioè, queste sono delle questioni importanti. Poi la Catalogna dovrebbe rientrare nell'Unione Europea in una situazione veramente assurda, in cui il resto della Spagna poi dovrebbe essere d'accordo ad accettare la Catalogna. Sono delle incognite che veramente determinano una situazione di mero autolesionismo, non saprei spiegarlo in altro modo, e in cui invece la cosa importantissima da fare, ma molto prima che si arrivasse al referendum, era ovviamente cercare una soluzione politica che andasse incontro a un'ulteriore autonomia in capo alla Catalogna. È possibile farla in campo fiscale, è possibile ad esempio evitare che prima i soldi dalla Catalogna vadano a Madrid e poi tornino in Catalogna, ma che si paghi soltanto la differenza, cioè che la Catalogna dia la differenza tra quanto deve ricevere e quanto deve dare al governo centrale. Si può andare in questa direzione, si doveva andare prima di arrivare alla violenza. Perché per chiudere Villafranca, fra l'altro, se prima forse l'indipendentismo era più legato a questioni di tradizioni, di cultura, di lingua, forse adesso diventa più una questione, qualcuno lo chiama il nazionalismo delle regioni ricche, nel senso chi sente magari di apportare il maggior contributo al PIL nazionale, chi si sente un po' sfruttato dalle parti più deboli del paese, si vuole staccare, diventa più una questione di convenienza economica, fiscale? Sì, è una questione anche in gran parte anche economica, non solo da parte delle questioni ricche. Prima lei citava il caso della Scozia, non è il caso appunto questo, cioè la Scozia non è una delle regioni più ricche della Gran Bretagna. Ma giusto per rispondere alla sua domanda precedente, non bisogna fare assolutamente di tutta l'erba un fascio, ogni caso è assolutamente a parte. Nel caso della Scozia c'è stato un referendum, ma questo era possibile, è stato fatto secondo gli accordi che ci sono tra il Regno d'Inghilterra e il Regno di Scozia, è stato appunto è stata seguita una procedura. Nel caso del Kosovo, ad esempio, lì si tratta di una questione molto più delicata, dove ovviamente non venivano rispettati, sono stati anche trucidati i kosovari. Nel caso del Kurdistan, andando fuori dall'Italia e dall'Europa, ci sono ancora altre motivazioni legate proprio al riconoscimento della nazionalità curda, cioè essenzialmente ci sono dei temi che riguardano l'autodeterminazione dei popoli, ma non può, ci sono tre criteri che vanno seguiti, lo dice il diritto internazionale, per parlare di autodeterminazione dei popoli, non è questo il caso della Catalogna. Quindi è proprio questo l'errore, termino, di Rajoy. Partiva da una situazione in cui aveva ragione, ma col modo in cui si è comportato, perché è debole e perché pensava di rafforzarsi nel resto del paese, veramente si è messo anche dalla parte del torto. Ha gestito malamente. Grazie Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Per chiudere, prima di lasciarci brevemente, leggo il messaggio di Martina da Venosa Potenza, che dice: l'errore della Catalogna è quello di pensare di potersi comportare come la Scozia, che in Europa sarebbe accolta a braccia aperte, mentre la Spagna la escluderebbe in eterno con il proprio veto. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato del referendum catalano, di tutte le conseguenze, delle mosse, di chi ha ragione, ha torto, insomma i torti abbiamo visto un po' da tutte e due le parti. Adesso invece ci spostiamo tra pochissimo sulla politica italiana. Vi ricordo che i fatti principali sono appunto la strage di Las Vegas, la più grave della storia moderna degli Stati Uniti, fatta con armi da fuoco, 58 morti, oltre 500 feriti, un uomo bianco di 64 anni che ha sparato sulla folla di un concerto a Las Vegas. L'ISIS si rivendica, ma l'FBI dice che non ha nessun collegamento col terrorismo. Poi vi dicevo appunto il referendum catalano e la politica italiana, di cui parleremo tra pochissimo, e il Nobel per la medicina, che è stato assegnato ai tre medici che hanno scoperto come funziona l'orologio biologico. Ora saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Elisabetta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Allora, oggi diciamo che la cosa più rilevante della politica italiana è stato questo incontro tra il presidente del Consiglio Gentiloni e il leader di campo progressista Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, nonché, ho questa impressione, un po' ago della bilancia del centrosinistra in vista delle elezioni politiche che dovrebbero esserci a primavera. Vogliamo sentire oggi un passaggio di quello che ha detto al presidente del Consiglio? Sentiamo Pisapia. Abbiamo posto al Presidente del Consiglio alcune priorità per noi indispensabili. Innanzitutto che la legge di bilancio non deve più avere mance elettorali come è successo in passato. In secondo luogo che bisogna intervenire con serietà e con investimenti importanti sul tema del diritto alla salute. Diventa fondamentale poi il tema del lavoro. Le nuove assunzioni ci devono essere, nuovi investimenti, ma anche tutela del lavoro e dei lavoratori. Quindi tutte queste priorità di Pisapia, Betta, in cambio di possibili alleanze? Ma intanto bisogna dire che appunto MDP e Pisapia vogliono ovviamente un DEF più sociale, no? C'è anche questo allarme sulle cure sanitarie, quindi insomma sicuramente c'è questa trattativa in corso. Dall'altra parte però si guarda anche alla legge elettorale, quindi Bersani dice: no, noi non faremo assolutamente cadere il governo sul DEF. Però poi il Rosatellum non ci piace, è un Parlamento fatto di nominati, noi invece chiediamo collegi piccoli, primarie per collegi uninominali, insomma hanno una loro idea. Dall'altra parte quindi MDP è un po' diviso, vorrebbe forse far saltare tutto, però non può, e in vista poi sia della legge elettorale sia di alleanze future. Pisapia sembra sì il paciere in questa fase tra il PD e gli ex del PD, perché ricordiamo poi il MDP è formato da fuoriusciti del Partito Democratico. Con Bersani in testa, no? Con Bersani in testa, e bisogna vedere cosa succede domani. Prima di mercoledì, perché mercoledì si vota il DEF, ma domani si inizia a votare in Commissione Affari Costituzionali la legge elettorale. E quindi se magari sarà preso in considerazione un emendamento di MDP, qualche modifica che possa poi garantire magari meno nominati, allora potrebbe poi chiudersi un accordo già anche sul DEF, ma anche sulla legge elettorale, anche perché parliamo insomma degli ultimi due provvedimenti della legislatura poi fondamentalmente. E quello che c'è sempre sul DEF, che poi tutti quanti fanno le loro richieste, il Movimento 5 Stelle ha chiesto ai sindaci di partecipare perché i comuni non possono essere il bancomat del governo, però poi in effetti sembra poi sempre un po' una rincorsa alla dirigenza, no? L'attacco alla dirigenza. È chiaro che il sentiero è molto stretto, i soldi sono molto pochi e quindi si potrà fare ben poco, però intanto col PIL che va meglio tutto è leggermente più facile per Gentiloni. Vediamo che cosa succederà soprattutto sulla tenuta del DEF, dove MDP al limite potrebbe trovare magari un'astensione alla Camera, non si sa, perché poi occorre la maggioranza assoluta e soprattutto che cosa succederà sul tavolo vero, che è quello della legge elettorale. Staremo a vedere. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Grazie a voi. Ciao Elisabetta. E abbiamo la viabilità, vi ricordo, per la vostra interazione messaggi al 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Note, però difficoltà stasera ad aprire. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito del magistrato arrestato a Messina per pornografia minorile, dice questo ascoltatore, vedrai, dice Roberto, presto la magistratura chiederà che il reato di pedofilia sia regolato meglio dal Parlamento. Via, non credo, non arriviamo fino a questo punto, è stato arrestato e la giustizia farà sicuramente il suo corso. Le notizie principali, ne abbiamo parlato del referendum catalano, delle prossime mosse, di quello che chiede anche il presidente della Catalogna, insomma di una mediazione internazionale, poi della politica italiana ce ne siamo appena occupati, pornografia minorile, appunto arrestato un giudice a Messina, e poi per il premio Nobel 2017 i tre padri dell'orologio biologico di cui parleremo dopo. Adesso invece ci occupiamo appunto di Stati Uniti. Saluto allora a questo punto il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dall'America. Ciao caro Marco. Salve, buonasera. Allora, questa strage a Las Vegas, che è stata definita la più sanguinosa, no, della storia moderna degli Stati Uniti, commessa con armi da fuoco, è stata a compierla un uomo bianco, Stephen Craig Paddock, di 64 anni, senza precedenti penali, poi si è suicidato prima che facesse irruzione la polizia in questo hotel dove lui aveva affittato da qualche giorno una stanza al 32esimo piano. Da lì, dalle finestre, si è messo a sparare ieri notte all'impazzata sulla folla, uccidendo il bilancio fino a poco fa era di 58 persone morte e oltre 500 feriti, no Marco? Sì, una vera e propria strage, come dicevi, la più grave commessa con armi da fuoco, la più grave mass shooting nella storia moderna americana. Ecco, per un eccidio di dimensioni superiori bisogna risalire all'attentato con esplosivi di Oklahoma City a metà degli anni 90 da parte degli estremisti bianchi antigovernativi. Marco, l'ISIS ha rivendicato, ma io oggi mi viene da dire davvero che ormai l'ISIS, pur di attribuirsi stragi, vittime eccetera, rivendicherebbe anche le vittime di un terremoto, no? Ormai. Sì, esatto, non ci sono indicazioni di nessun genere, né la data, la stessa ISIS, che quest'uomo fosse altro che non un appunto pensionato con un evidente elemento di estrema follia omicida. Non ci sono indicazioni di una radicalizzazione appunto rivendicata da ISIS. Non aveva una fedina penale, il fratello, altri familiari sono detti scioccati nello scoprire diciamo cosa aveva, quell'atto orrendo che aveva commesso, però è venuto fuori anche poco fa, comunque aveva una storia familiare abbastanza travagliata, il padre aveva una lunga fedina penale, arrestato e incarcerato a lungo per rapina in banca. Ecco, detto questo, non ci sono ancora indicazioni sulle motivazioni, si sa che aveva una passione per il gioco d'azzardo e per questo forse anche si trovava a Las Vegas, ma non si sa se appunto l'eccidio condotto appunto con una decina di armi da fuoco che poi sono state ritrovate nella sua stanza sia stato così magari premeditato, Marco, perché in effetti si era portato lì parecchie armi, significa che qualche intenzione, no? Un vero arsenale, sì, era decisamente premeditato e non è ancora chiaro il puzzle delle motivazioni di questo atto incredibile, atto terribile che ha lasciato sotto shock il paese e che ha rilanciato chiaramente il dibattito sulla facilità nel possesso di armi. Mi pare che Hillary Clinton sia intervenuta su questo, no? Dicendo è ora di affrontare di petto questo argomento delle armi troppo facilmente conseguibili. Assolutamente, no? Soprattutto armi d'assalto che appunto nel giro di pochissimi secondi, pochissimi minuti possono, come si è visto ieri sera, fare delle stragi inenarrabili. Ecco, un dibattito però che rimane nell'impasse, rimane bloccato. E infatti vedevo un comunicato della Casa Bianca, Marco, che diceva non è il momento di occuparsi adesso di questioni, di temi legati al possesso di armi o meno, però invece forse ogni volta che succedono cose di questo tipo forse sarebbe il momento, forse sarebbe il momento che questo dibattito si sbloccasse, ma finora l'influenza della lobby delle armi, della National Rifle Association, la sua diciamo forza politica nel movimento conservatore è sempre riuscita così a rintuzzare qualunque spinta verso un maggior severo controllo nella diffusione delle armi, nonostante appunto, come ha ricordato vari critici anche in congresso, senatori e deputati democratici, appunto altri paesi diciamo sviluppati non abbiano questa frequenza di stragi così e di massacri insensati come li ha gli Stati Uniti, ormai appunto decine, oltre un centinaio nell'arco degli ultimi decenni, e condotte con centinaia di armi da fuoco, spesso proprio comprate legalmente anche in questo caso, sì, veramente spaventosi questi fenomeni. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Grazie a voi. Ciao Marco. Ora invece, per chiudere, il Nobel per la medicina 2017, che è stato assegnato, come vi dicevo, ai tre padri dell'orologio biologico, Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young, che hanno ricevuto questo riconoscimento per aver scoperto il meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano, quello di sonno veglia, di luce buio, no? Quindi l'orologio biologico che scandisce ogni istante dell'esistenza dei viventi. Ma io ve lo riassumo così, però ce lo spiega molto meglio il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professor Strambi, buonasera. In che ritmo circadiano è lei? Ma io sono assolutamente normale e devo dire che per fortuna sono uno poiché non soltanto dorme bene dal punto di vista quantitativo, qualitativo, ma anche come collocazione del proprio sonno. E questo secondo me è importante, ma questo premio Nobel è stato dato appunto grazie a questi studi che hanno fatto capire l'importanza appunto della circadianità, cioè di questi ritmi che nell'arco delle 24 ore hanno un andamento specifico, preciso, e non è soltanto il ritmo del sonno e della veglia, ma è anche il ritmo di tanti ormoni che seguono appunto un preciso profilo circadiano. Basti pensare ad esempio all'ormone della crescita, il GH, che viene rilasciato nelle prime ore notturne, come invece appunto il cortisolo, che è l'ormone che ci attiva, che ci rende più attivi e più diciamo così più energici, soprattutto al mattino dopo il risveglio. E questo è, ripeto, è una cosa importante perché ancora una volta si ribadisce come sia fondamentale avere un rispetto per questo ritmo circadiano. Questo purtroppo non sempre succede perché, come ben sappiamo, oggi tendiamo sempre a vivere in una maniera proprio di assoluta anarchia per quanto riguarda i ritmi, e questo ha delle serie conseguenze poi. Professor Ferini Strambi, tra l'altro è importante lo studio sull'orologio biologico anche perché si dice che si potrebbero individuare delle future armi addirittura anticancro? Sì, allora per semplificare, noi sappiamo che ad esempio chi non rispetta la ciclicità ad esempio del ritmo sonno-veglia è a maggior rischio per alcuni tipi di tumore, quindi questo, ci sono già ricerche che hanno dimostrato questo. Ma l'altro aspetto altrettanto importante è che noi sappiamo che ad esempio la somministrazione di determinati farmaci di terapie antitumorali, l'efficacia di questi farmaci dipende molto anche dal momento in cui vengono somministrati, quindi è importante anche sapere, conoscere qual è il ritmo sonno-veglia, il ritmo circadiano dell'individuo, proprio per cercare anche di far sì che determinate terapie siano ancora più efficaci. Professore, ma se lei dovesse dire, lei ha detto che dorme bene, che dorme con i ritmi giusti, ed è una fortuna e anche bravura probabilmente da parte sua, no? Riuscire a mantenere un po' di disciplina. In buona parte è genetica, questo in buona parte è genetica. Ecco. Per chi dorme invece male, sonni travagliati, eccetera, quindi si può fare... Allora qui c'è da fare una distinzione importante, che è questa. Allora, noi abbiamo dentro di noi un orologio biologico che scandisce appunto i nostri ritmi sonno, veglia, eccetera. Quindi questo è un aspetto genetico, quindi noi sappiamo che esistono i soggetti normali, quelli che invece sono un po' ritardati come fase di sonno, i cosiddetti gufi, quelli che sono anticipati come appunto invece sono le allodole. Ma al di là di quello che è geneticamente determinato, oggi purtroppo noi non abbiamo alcun rispetto, diciamo così, proprio con i nostri comportamenti, di quello che è il ritmo circadiano, che ripeto, ritmo circadiano non vuol dire soltanto sonno veglia, ma vuol dire anche tante altre cose sotto il profilo, ad esempio, ormonale, sotto il profilo della temperatura corporea. Quindi il mio suggerimento è questo. È chiaro che uno deve rispettare quello che geneticamente uno è, perché così è e purtroppo non si può modificare. Ma quelli che sono i nostri comportamenti invece, che sicuramente sono una cosa che si può modificare, che si riesce comunque a modificare, ecco, questo è importante farlo. Facciamo un esempio pratico, velocissimo. Sì. I soggetti che sono ad esempio gufi o tendenzialmente gufi, è chiaro che alla sera non hanno mai sonno, non andrebbero mai a letto, eccetera. Ma se con il loro comportamento vanno a esasperare questo aspetto, ecco, questo non va assolutamente bene. Quindi bisogna cercare di darsi un po' un limite, no? Non andare in ore troppo piccole, a un certo punto andarsene a letto e cercare man mano di aggiustare il tiro. Chiarissimo. Grazie professor Luigi Ferini Strambi, buon sonno a lei, allora buon riposo. Grazie, quando andrà grazie a voi letto. E a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie professore. Direi che allora possiamo fermarci qui, tanto poi ci risentiamo alle 22 per le notizie, per gli aggiornamenti. Marco da Pisa dice: scusatemi ma resto incredulo, come può un uomo solo avere tempo e modo di sparare, presumo almeno un migliaio di colpi sulla folla? E beh, era lì al 32esimo piano, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, giù c'era una folla immensa, uno ha un mitragliatore, un fucile automatico, è chiaro che può fare più o meno quasi tutto quello che vuole, purtroppo. Ci risentiamo tra poco.